into the groove, boy, you've got to prove your love to me, yeah. Amici, amici, amici di Radio 23, ben trovati dalla gelida Milano, una giornata oggi un pochino più solatia rispetto ai giorni precedenti, quindi si sta psicologicamente bene, anche se fisicamente, insomma, così è così, perché davvero il freddo ci attanaglia. Sentite anche la mia voce, ha subito le funeste ire di Messer Inverno, infatti mi hanno scambiato spesso per Amanda Lear, che saluto, una carissima amica. Grazie, ciao Amanda, ciao ciao. Intanto sedetevi in fretta perché oggi la puntata è stellare. Per quale motivo? Perché parlo di soltanto due oggi, ma che due ragazzi, che binomio, due batteristi stratosferici. Io ho un personalissimo pantheon di riferimento, diciamo, ci sono alcuni batteristi che stimo e ammiro e che sono per me dei modelli. Diciamo sono fondamentalmente tre i grandi batteristi che io venero, due di questi oggi li tratteremo assieme, perché sono due signori dei piatti. Naturalmente di uno di loro avevo già accennato nella prima puntata, e lo dico subito, è Stewart Copeland, grandissimo batterista dei Police, e non solo dei Police, come scoprirete nel corso della puntata. Allora, perché? Vado subito al sodo, non sto a fare tanti preamboli, ormai vi siete accomodati, il salotto è vostro, lo sapete, quindi sapete dove trovare tutto, piazzatevi e mettetevi comodi. Innanzitutto una piccola spiega: fino ad oggi abbiamo fatto puntate, diciamo così, tematiche che giravano attorno a un nucleo musicale. Oggi scoprirete qual è il minimo comune multiplo, oppure il minimo comune multiplo, il massimo comune denominatore, insomma qualcosa che lega assieme questi due batteristi, quali sono i generi musicali o gli artisti attraverso i quali loro sono collegabili. Beh, comunque ho detto già da subito che è fondamentalmente per il loro impiego dei piatti e per il modo attraverso il quale costruiscono i ritmi, che per me sono due fari nella notte della musica. Mamma mia, che metafore importanti che sto usando oggi. Comunque, va bene, vado subito al sodo. Stewart Copeland, diventato celebre in tutto il mondo per essere il batterista dei Police. Copeland è un artista di grandissima personalità e di una straordinaria tecnica batteristica. La sua firma, diciamo così, è l'uso straordinariamente creativo del Charleston. Mi rendo conto che sto usando l'aggettivo straordinario molto spesso, ma perché di quello stiamo parlando, di qualche cosa che assolutamente trascende l'ordinario. Il modo attraverso il quale Copeland costruisce i ritmi sul Charleston è davvero unico e nessuno, almeno che io sappia, è stato capace di ripetere quella sensibilità e quella creatività ritmica usando soltanto un pezzo della batteria. Poi lui è ovviamente un funambolo della batteria, perché il suo kit comprende molti pezzi, molti piatti, molti tom, e poi utilizza degli oggetti che si chiamano Octoban, dei quali magari parleremo più avanti, che sono dei piccolissimi tamburi che hanno un suono molto molto incisivo. Il brano più esplicativo per capire quale sia l'utilizzo importante di un Charleston all'interno di una canzone, lo avevo accennato nella prima puntata del punk, è senza ombra di dubbio Walking on the Moon, che è una canzone nella quale la batteria fa veramente la parte del leone. Basso e chitarra sono dei riempimenti, no? Sono degli abbellimenti, ma il grosso del lavoro viene fatto da questa costruzione ritmica dove la cassa è quasi assente, quindi tutto il brano viene costruito sul Charleston e sul rimshot, anzi sul cross stick si chiama, che è il colpo che si dà con la bacchetta sul cerchio del rullante, quello è il cross stick, è quello che fa ciak ciak, si usa molto nei ritmi latini oppure nelle ballad quando si vuole fare una roba, un'atmosfera un pochino più soft. In questo brano un paio di particolarità. Dunque, la prima è che appunto Walking on the Moon, quindi questa camminata in scarsa gravità, viene restituita da questo ritmo assolutamente sospeso che Copeland ha costruito e che accompagna tutto lo svolgersi del brano. La seconda è che il furbacchione ha usato un delay sui suoni della batteria. Il delay è un effetto per i non musicisti, è un effetto che in qualche modo simula un eco un eco ripetuto, è quello che per esempio piace tanto nelle canzoni di Battiato, nella canzone di Battiato quando dice like Rolling Stone, Stone, Stone, Stone, Stone. Questa replica, questa ripetizione è un delay, che poi vuol dire ritardo e che ci infastidisce tanto quando lo vediamo nei tabelloni delle stazioni, o peggio ancora negli aeroporti, quando il volo è delayed, ritardato. Ecco, l'uso del delay all'interno della ripresa microfonica della batteria fa sì che questo ritmo si vada a sovrapporre, si insegua. Chiaramente il delay può essere regolato elettronicamente, insomma, di modo da avere un ritardo controllato, e quindi questo non va fuori tempo ma si sovrappone e crea un tempo molto molto interessante. Lo si sente assolutamente a partire tipo dal secondo minuto della canzone. Comunque io ve la faccio ascoltare subito, sentite fin dall'introduzione si capisce qual è la parte del leone di questa canzone, Walking on the Moon. We'll be right back. Avete camminato un po' sulla luna? Avete camminato, dite la verità. A parte che poi c'è stata questa storia della luna gigante di questi giorni che telegiornali traditori e ingannatori ci hanno fatto credere che avremmo visto una luna enorme, invece in realtà io l'ho guardata anche dietro tutti i palazzi di Milano, a me sembrava una luna uguale alle altre. Tra l'altro saluto un amico che non aveva capito una mazza, un amico di Foiano che si chiama Brunero Falchi, che era convinto che ci sarebbe stata un'eclissi, è stata tutta la notte fuori, è morto di freddo per non aver visto praticamente niente se non una bellissima luna piena, forse leggermente più grande delle altre volte, ma davvero dalle foto che si vedeva sui servizi televisivi, ma io lo sapevo già perché io sono un esperto di fisica, si vedevano queste foto con queste luni enormi dietro gli alberi, immense dietro gli skyline delle città, e poi in realtà la luna era la stessa luna di sempre. Ma insomma, salutiamo e ringraziamo la luna, ringraziamo i Police per averci fatto camminare davvero sulla superficie lunare con questa canzone straordinaria, questa sospensione che avrete finalmente, spero, colto in questa impalpabile leggerezza costruita su un Charleston. Particolarità ulteriore dell'amico Stewart Copeland è il suono del rullante. Oggi però devo fare una piccola digressione, l'avevo promesso, parleremo di che cos'è un rullante. Dunque, il rullante è il pezzo principale della batteria, è il suo cuore. Praticamente, ah ecco, giusto. Giusto, regia, che mi aiuti a mettere su la sigla di riferimento. Il rullante. Dunque, il rullante è il pezzo principale della batteria, come dicevo, è quello che marca maggiormente il tempo, il ritmo, ed è costruito a partire da diversissimi materiali. Può essere in legno, e qua il numero delle varietà di legno che si possono usare è pressoché illimitato. Si può usare il faggio, si può usare il pioppo, si può usare la betulla, si può usare l'acero, si può usare il mogane, si può usare, non so, legni africani tipo... Io ne ho uno bellissimo in zebrano, fatto da un artigiano straordinario Treno, lo saluto e lo ringrazio. Si possono usare appunto il padauk, che è un legno molto duro, oppure si possono mescolare le essenze, fare un multistrato. Diversamente si può usare l'acciaio, che è uno dei rullanti più usati soprattutto dai rocker degli anni 70, si può usare l'ottone, si può usare il bronzo. Addirittura sono stati fatti dei rullanti in cemento, per dire come cavolo siamo conciati, oppure si possono usare gli acrilici. Si possono fare degli ibridi, insomma, si possono usare tutti i materiali che ci vengono in mente. E poi, diciamo, il rullante ha una doppia pelle, una battente e una risonante, che sta a livello inferiore, ovviamente. E la particolarità della risonante è che su questa appoggia una cordiera. La cordiera è una... diciamo, come ve lo spiego? È un pettine, no? È una fila di fili metallici. Tipo frisé, per capirci, e i quali, come dire, ricevendo la vibrazione della pelle risonante, entrano a loro volta in vibrazione e fanno quel suono crrr, che è tanto bello e che tanto ci rende amato e amabile il rullante. Ecco, detta questa ulteriore piccola spiega sul rullante, sappiate che una delle particolarità più importanti di Stewart Copeland è il suono che lui ha portato nel rullante, nel senso che fino diciamo alla musica dei Police, magari ce n'erano altri, ma parlo sempre di star mondiali, i rocker tipo John Bonham, tipo Ian Paice, che abbiamo ascoltato, lo stesso Keith Moon, avevano dei suoni abbastanza grossi, cicciotti del rullante, era bello pieno, era un suono bello basso, mentre Copeland, tendendo moltissimo la pelle battente, ottiene un suono davvero molto molto acuto, che poi sono i suoni che saranno ripresi anche dai musicisti del funk, no? Il rullante nel funk è molto molto acuto, lui lo utilizza nel punk e nel rock, quindi ha questo suono davvero tanto tanto riconoscibile. Poi vabbè, aveva una stecca nella mano sinistra, come si dice, una potenza sulla mano sinistra, sul rullante tirava delle legnate veramente spaventose, però ha proprio questo suono molto molto incisivo e molto perforante. Una delle canzoni dove meglio possiamo apprezzare questo suono tagliente del rullante, che veramente superava tutto il muro di suono della chitarra e del basso, è un brano che a me manda letteralmente fuori di testa, si intitola Synchronous IT numero 1 ed è la title track che apre appunto l'ultimo disco dei Police. Synchronicity, o Synchronicity, non mi ricordo mai come si pronuncia perché Sting si mangia le parole, è un brano che a me manda fuori di testa proprio perché è suonato in 6/4, non è un brano quadrato, è un tempo, non è un dispari, ma insomma non è nemmeno un tempo ortodosso. Però Copeland, con la sua intelligenza musicale, non marca il 6/4, ma lo suona come se fosse un 4/4. Quindi ci sembra un pezzo quadrato normale, anche se è un pezzo che ha una scansione ritmica molto diversa. Questo crea dentro la canzone una sorta di disequilibrio equilibrato. Adesso io sto usando queste metafore un po' strane perché non riesco neanche a farmi io capire da solo, quindi figuriamoci se riesco a farlo capire a voi che non masticate di ritmo. Un batterista mi avrà già detto, sì, figurati, lo sapevo già da un pezzo. Quelli che invece la batteria non la suonano magari saranno incuriositi da questo piccolo dettaglio, perché suonarlo in maniera regolare fa sì che appunto questo pezzo cammini, marci molto veloce, molto svelto, anche se appunto il cantato è costruito su un tempo più lungo rispetto al normale, quindi c'è questa sorta di rincorsa. Io lo faccio partire immediatamente e poi ditemi se non avevo ragione io. Senti qua come attacca, eh? Ve lo conto? Ora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, capito? Sul 6 lui costruisce il 4. 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, Beh, e questa era Synchronicity, insomma, abbiamo ascoltato un brano dove il Charleston, giusto per smentirmi immediatamente, non è tanto presente quanto lo è invece la campana del ride. Avete sentito quei pezzi meravigliosi che fa tutte quelle sincopi, ormai la sincope la conoscete, sono straordinarie, insomma, un ritmo che corre, galoppa via come un siluro. Allora, Stewart Copeland non è solo e soltanto i Police, per quanto siano la cosa più bella, secondo me, che ha fatto. È un artista completo, si è dedicato a fare colonne sonore per i film, addirittura ha firmato per gli amici nerd come me la colonna sonora di un videogame molto famoso che è Spyro the Dragon, l'ha scritta lui. Ecco, se avete giocato a Spyro, quel draghettino meraviglioso viola, lui le musiche, insomma, sono di Stewart Copeland, giusto per dire, vabbè, una curiosità. Che cosa ha fatto ancora? Intanto ha fatto una band con un ragazzino al basso che si chiama Stanley Clark. La band si chiamava gli Animal Logic. Hanno fatto due dischi, il primo ha avuto successo, il secondo no, hanno smesso di suonare. ma erano dei meravigliosi brani. E c'era anche una cantante di cui non mi ricordo il nome, perché io quando sento Copland e Clark assieme, basta, tutto il resto ci poteva cantare anche il cito del Poro Schifoso, avrebbero detto a Foiano, che sarebbe stata la stessa cosa. Comunque, quell'esperienza è durata appunto l'arco di due dischi. Cercatevi soprattutto il primo, Animal Logic, il primo è un disco meraviglioso. E invece cosa succede poi? A un certo punto Copland lascia la batteria, smette di suonare, basta, dice basta, mi sono stufato, adesso mi dedico appunto a fare il compositore. Poi l'avrete scoperto, ha suonato, adesso non mi ricordo se dal 2002-2004, perché io con le date sono un disastro. Ha fatto il maestro concertatore alle Notti della Taranta, la residenza è un cittadino onorario di Melpignano, questo ci fa onore a Melpignano, e poi insomma si è dedicato a queste attività qua, tranne che a un certo momento l'hanno richiamato a suonare la batteria con un trio leggermente importantino. La band si chiamava Hoistered, cioè tipo Teste d'Ostrica, lo traduco io a caso, comunque sia. Con gli Oysterhead vi dico semplicemente che assieme a lui suonava un certo Trey Anastasio, chitarrista di una piccola band di secondo piano che si chiama i Fish, e scusate se è poco, e al basso c'è niente po' di meno che Les Claypool dei Primus. Allora, questo connubio che cosa ha creato? Ha creato un genere musicale assolutamente straordinario, perché dai Primus arrivava quella specie di funky metal, psycho metal, insomma... I Fish, se li conoscete, insomma, lo saprete, hanno esplorato quasi tutti i generi musicali, dal country all'AC jazz quasi, quindi sono stati molto intriganti, al prog addirittura, e poi vabbè Copland con questa sua macchina da guerra che è lui dietro i tamburi. Io ho scelto un brano, che è quello che apre il primo disco che loro hanno pubblicato, ho scelto la versione studio, se vi va di ascoltarvi la versione live, io non l'ho messa perché è davvero troppo lunga per una radio, ma la versione studio già ci rende l'idea di quando hanno richiamato Copland dietro i tamburi e lui ci fa capire che è tornato in grandissima ed eccellentissima forma. Ascoltatevi, già solo dall'intro si capisce chi è che comanda dietro i tamburi. Senti come parte questa canzone che si intitola Little Faces. Questa è l'apertura, no? Leggermente, come dire, computeristica. E poi lui parte con un ritmo pazzesco in rudimenti puri, questo. Attenzione. Signori, Mr. Stuart Copland. We'll Allora, dentro un brano del genere ci sarebbe da analizzare ogni singola battuta, perché avrete forse percepito dei passaggi straordinari sui piatti, fra piatti e rullante, avrete percepito, spero, questa fortissima e importantissima vena reggae dentro questo ritmo assurdo. Perché è una roba sospesa, no? Ci sono tutte queste influenze, appunto si sente quella specie di io lo chiamo funky metal, appunto, che è che viene appunto dai Primus, no? C'è questo basso distorto di Les Claypool che è bellissimo, e poi ci sono queste influenze appunto raga rock che vengono dalla tradizione dei Police, che sono proprio la firma di Stewart Copeland. Allora, questo brano è da riascoltare mille volte. Se avrete voglia, tempo, insomma, fatelo. Stavo per dire una parolaccia, stavo per dire cazzo, fatelo, e adesso l'ho detta. Ora, ultimo brano che ho scelto per ascoltare le qualità musicali di questo artista che io adoro, le metto assieme al mio cantante preferito, che è Peter Gabriel. Perché, già, proprio così, Stewart Copeland ha suonato anche un po' per Peter Gabriel. Soprattutto ha suonato in questo brano che si intitola Red Rain, e Gabriel, che è un ragazzo intelligente e capace, che conosce la musica, gli ha chiesto di suonare soltanto il Charleston in questa canzone. E alla batteria ci suona un certo Jerry Marotta, che ha suonato con Mezzo Mondo e del quale non parliamo oggi, forse parleremo un'altra volta, ma è un grande batterista, ha suonato davvero con Mezzo Mondo musicale, e questo brano l'ha registrato Jerry Marotta alla batteria. Però Peter Gabriel ha chiamato Copeland dicendogli: guarda, a me serve che tu venga a suonare solo e soltanto il Charleston in questa mia canzone, perché voglio un'atmosfera e un ritmo che so che soltanto tu mi puoi dare. E allora ascoltiamocelo, perché già dall'introduzione, già dai primi 10 secondi, si riconosce immediatamente la mano unica di Stewart Copeland, Red Rain. Ecco qua, in 10 secondi t'ha già detto ciao, eccomi, io sono qua, se vi riesce a fare la stessa roba, chiamatemi, eh? Red Rain. Ah, il Charleston suona per tutto il brano, non solo nell'intro. Stand. E avanti così con altri 2 o 3 minuti di canzone che io taglio leggermente, non me ne vorrà l'amico Peter Gabriel, perché veramente se no mi finisce il tempo, devo dirvi un sacco di robe. Giusto per capirci, al basso ci stava un certo Tony Levin, insomma l'orchestra di Peter Gabriel è sempre qualche cosa di assolutamente imperdibile, straordinario. Allora, qual era il tratto che unisce i due batteristi di oggi, che sono il primo Stewart Copeland e il secondo, Manu Katché, io lo amo. Se lo trovassi per strada probabilmente lo bacerei sulla bocca. Proprio Peter Gabriel e forse anche Sting? Esattamente, perché hanno suonato praticamente entrambi con entrambi i musicisti. Da una parte mi viene da dire che Copeland ha fatto gran parte del suo successo con Sting, Manu Katché ha fatto gran parte del suo successo sicuramente con Peter Gabriel, ma penso anche in egual misura con Sting come solista. Allora, andiamo subito a parlare di Manu Katché. Perché lo venero? Perché è un musicista che viene da una tradizione africana della musica, quindi è uno che usa moltissimo i tamburi e usa tantissimo i piccoli piatti che si chiamano splash. I piatti della batteria si suddividono per diametro. I più piccoli che ci sono in commercio sono i 6 pollici, fino ai più grandi che possono arrivare fino ai 24 pollici, oltre si parla di gong, oppure di grandi esperimenti, insomma. Lui usa tantissimo i piatti da 6, da 8 e da 10, sono appunto nel range, si chiamano splash quelli piccolini, da 6 a 12 si parla di splash, da 13 a 18 si parla di crash, oltre si parla di ride, oppure vabbè, insomma adesso è un po' più complicata perché sono anche i crash da 20, poi un giorno entriamo più nel dettaglio dei piatti. Comunque immaginatevi questi piatti piccolini dal suono molto incisivo, molto tagliente, molto presente, che sono pericolosi perché appunto essendo molto, molto incisivi all'interno del fraseggio musicale, si rischia di abusarne un po', come faccio io spesso. A me piacciono da morire, ma mi rendo conto che ne abuso. Invece Manu Katché, che è un professionista di tutt'altra pasta, è uno che li usa con una sapienza, una qualità e una attenzione musicale che sono davvero uniche. Il primo brano dove lo sentiamo però suonare, secondo me già al meglio della sua forma, è un brano di Peter Gabriel, si intitola Come Talk To Me. Io ho scelto la versione live perché ce l'ho nel cuore, il concerto che sono andato a vedere nel 94 e l'ho visto a Firenze, è il concerto più bello che ho visto in tutta la mia vita. Lo ascoltiamo subito, lo faccio partire e intanto così ve lo racconto un pochettino. Questa canzone, sentite già il pubblico, grazie, grazie, sto arrivando, questo è un applauso solo per noi di Into the Groove, non è per Peter Gabriel. In questa super band dove c'è Dave Rhodes alla chitarra, dove c'è Tony Levin al basso, c'è questo signor Manu Katché dietro i tamburi che fa impressione. Ascoltiamolo come usa questi piccoli splash e come riesce a costruire questi ritmi proprio africani, perché usa delle rullate molto spostate, dei fraseggi velocissimi, degli incastri ritmici che io faccio anche fatica a immaginare, e lui li mette, li rende musicali e perfetti dentro una canzone pop. Qua immaginatevi al concerto, vabbè se vi va vedetevi il live su YouTube che c'è. Peter Gabriel esce da una cabina del telefono mentre parla, bellissimo. Qui è solo lui e poi attacca il ritmo, c'è un campionamento elettronico e la batteria sopra, vai. Please talk to me. Won't you please come to me? talk to me just like it used to be. Come on, come talk to me. I did not come to steal. This all is so unreal. Can you show? Won't you please come talk to me? Just like it used to be. Come on, come talk to me. Don't you ever change your mind. Now your future's so defined. And you act so deaf, so blind. Vai Manu! I can't imagine the moment winking out through the silence all the things that we both might say. My heart, it would not be denied. Two were both on the same damn side. All the barriers worn away. Ah, please talk to me. Won't you please come talk to me? Just like it used to be. Come on, come talk to me. E questo è Manu Katché, giusto per darsi del tuo e subito far capire di chi stiamo parlando. Un brano straordinario di Peter Gabriel, dove lui ha un approccio musicale alla batteria che è veramente, ragazzi, da levarsi il cappello. Io l'avrò ascoltata 100.000 volte e questa sarà la 100.001 e ancora ho la pelle d'oca ogni volta che ascolto questo pezzo qua. Tutte le mattine io mi sveglio, prego il Dio del ritmo di darmi l'intelligenza musicale di Manu Katché, ma tutte le volte le mie preghiere vanno a vuoto, forse sbaglio la formula, devo provare a cambiare il ritmo della preghiera. Comunque sia, andiamo avanti. Perché? Perché questo batterista qua è uno che appunto ha una tale peculiarità musicale che tutti lo vogliono. Questo ha suonato con mezzo mondo veramente, perché si vuole quell'approccio ritmico lì, quell'idea musicale lì. Non è un turnista nel senso stretto del termine, al quale si dà una canzone da suonare, gli si dà un arrangiamento e lui lo esegue perfettamente. No, lui reinterpreta, mette del suo, questa sua appunto, io lo ripeto ancora una volta, intelligenza musicale, sensibilità ritmica, e la rende particolare, perché questo uso dei piatti, questo uso dei tempi sincopati, di questo ritmo sui tom, di questo suo tocco unico, praticamente sono un po', come dire, la sua grammatica, il modo attraverso il quale lui parla. Si possono usare due piatti, se ne possono usare 300, Ogni piatto ha un suono e ha un colore, quindi è un po' come dire, se a un pittore si chiede di fare un disegno soltanto con un carboncino, quindi un bianco e nero, e farà un capolavoro meraviglioso, oppure gli si dà in mano tutta l'intera tavolozza e farà un capolavoro altrettanto meraviglioso ma differente. Quindi questo uso dei piatti, molto importante da parte di Cacciè, è appunto un pittore che usa tantissimi colori per dipingere il proprio quadro, rispetto ad altri batteristi che invece usano pochissimi piatti ma riescono a fare cose altrettanto memorabili. A me piace moltissimo il suo stile, e non piaceva soltanto a me, ma piaceva anche ad esempio al signor Sting, ed ecco un altro, appunto, come anticipavo prima, punto in comune fra questi due batteristi. La canzone più bella, secondo me, suonata da Manu Cacciè con Sting è un piccolo grande capolavoro immortale che è Englishman in New York. Pensa che io l'ho scoperto dopo che l'aveva suonata lui. Ascoltavo questa canzone che mi piaceva da matti, da ragazzino, e quando poi da più grande ho detto ma fammi capire un attimo chi è che ha suonato questo pezzo, sono andato a vedere e ho detto ma guarda un po', proprio lui, Manu Cacciè. Senti solo da come inizia, lui ci ha portato anche qui in questo caso una vena leggermente reggae, perché la sentiva in questo modo. La canzone originariamente non era così. Quando l'ha andata a Cacciè, lui l'ha ascoltata, l'ha metabolizzata e l'ha restituita con questo ritmo qua. Leggerissima, meravigliosa. E poi c'è di tutto, c'è reggae, c'è un pezzo jazz, c'è un pezzo quasi pop, però tutto costruito con una fluidità, una meravigliosa capacità di legare i pezzi. Eccolo qua. I don't drink coffee, I take tea, my dear. I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. See me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side. Take it everywhere I walk. I'm an Englishman in New York. Whoa. Esattamente, be yourself no matter what they say, cioè sii te stesso, non importa ciò che dicono gli altri. Questa è la particolarità proprio di Manu Cacciè, cioè di essere se stesso sempre e comunque, ed è il motivo per il quale tantissimi artisti lo hanno chiamato a collaborare nei propri dischi. tanti anche italiani, ad esempio io ancora una volta quando l'ho scoperto dopo, c'è un disco, adesso riderete di me, che io ho adorato, è Oltre di Claudio Baglioni, un disco del 90, l'ho consumato perché mi piaceva da matti come suonava quel disco, perché c'era dei pezzi musicali, a parte mi piaceva proprio il concept dell'album, mi piacevano i testi, ma poi era suonato ed è suonato in una maniera allucinante da perderci la testa. Poi apro il libretto, vado a guardare chi c'è, al basso Pino Palladino, e scusate se è poco, alla batteria in quasi tutti i pezzi proprio Messer Manu Cacce, in altri brani ha suonato Steve Ferrone, che è un altro da levarsi il cappello per capire quello che ha fatto l'unplugged di Eric Clapton, e quindi insomma, ma la maggior parte dei pezzi li ha suonati Manu Cacce, e infatti mi piacevano da matti, ma mi piacevano prima di scoprire che aveva suonato Manu Cacce, perciò non è come dire ah è il mio artista preferito dunque mi piace il disco, no, mi piace il disco, ah guarda un po' mi piace perché l'ha suonato il mio artista preferito. Fra i tanti artisti italiani con i quali ha collaborato ce n'è uno che io nel cuore penso di non essere l'unico, è proprio Mr. Pippo Daniele, o meglio Pino Daniele, ahimè tragicamente scomparso troppo giovane, ci ha lasciato una grandissima eredità musicale. Ascoltatevi questo brano qua e già dall'apertura si capisce chi c'è dietro i tamburi. Hai sentito lo splashettino? Ancora, eh? Sai che mi piace quando muovi quella testa per seguire la musica, per trovare la carica. Sai che mi piaci con quella gonna stretta quando muovi il fisico in un ritmo isterico che fa. Cosa si intende per marchio di fabbrica, cosa si intende per firma musicale? Si intende esattamente questo, questa capacità di suonare in funzione del brano, però rendendolo, come dire, personalizzato, particolare. Adesso io ho poco tempo, però voglio farvi riascoltare un attimo quando parlo di intelligenza musicale, intendo esattamente questo. Allora, vi faccio partire l'intro di questa canzone, perché dov'è il genio? Quando si costruisce un intro, di solito si conclude l'introduzione con una rullata un po' forte, no? Per lanciare la prima parte del cantato. Invece Cacce la fa a ridurre, la fa escludendo, non mette piatti, strano per lui, ma la fa leggerissima. Senti qua. Hai capito? Fa tutun questo passaggio sui tom, poi trrr. leggerissimo sul rullante e andiamo a introdurre la canzone. Va bene, l'ho voluta far sentire due volte perché sono un pazzo fanatico, ma io lo adoro. Dunque, siamo praticamente arrivati alla chiusura di questa trasmissione, di questa ennesima puntata. Spero di avervi fatto un pochettino incuriosire sulla storia, sulla grandissima capacità di questi due batteristi che io veramente venero sopra ogni altro musicista. Starei delle settimane a parlare di loro, dovrei farvi ascoltare centinaia di pezzi, sezione per sezione, battuta per battuta, per farvi capire perché sono così importanti, ma credo che il modo migliore sia semplicemente chiudere gli occhi e assaporarne le qualità e quello che riescono a tirar fuori così, sotto pelle, perché ci fanno vibrare, questo è il groove, questa è la potenza della grande musica. Comunque, per capire fino in fondo di chi stiamo parlando e quali sono le sue versatilità, ho scelto l'ultimo brano della sessione e Manu Katché ha suonato non soltanto con degli artisti pop, ma ha suonato anche con un signor rocchettaro, un altro dei grandi della chitarra, che è proprio Joe Satriani. Il disco è quello omonimo, si intitola proprio Joe Satriani. Io ho scelto una traccia molto roccheggiante dove ancora una volta si capisce come si possa applicare il proprio stile personale a un genere differente, insomma, quindi cambiare pelle senza cambiarsela. Questo è Manu Katché, questo è Joe Satriani, questa invece era Into the Groove. Io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima settimana, spero di essere stato esaustivo, spero che siate stati bene con me, ci sentiamo mercoledì, ho tutte le nostre repliche nel corso della settimana. Grazie, Manu Katché, ciao.